essendo un po' distratto, non sento la padrona che arriva sul più bello, ci prende per il collo e dice: ma che fate? In casa mia vi amate? E vestiti cretina e fagli un buon caffè. Ho visto cantautori matti, ladri autodidatti, ministri senza portafoglio mai. Ho visto tanta neve a Roma, calvi con la chioma, dischi con un giro in più. E cari amici, adesso lo confesso, se potessi tutto rifrei. E non sarò un poeta, ma anche se la vita fosse peggio, non la tradirei.